io avevo già pensato a questo traguardo l'anno scorso, cioè l'ultima lezione è sempre una lezione nella quale sboccano le altre problematizzando e quindi suscitando la discussione. Io propongo di fare come l'anno scorso. Adesso facciamo una pausa di un quarto d'ora e poi allora a tavola rotonda riprendiamo la discussione di 3-4 punti. Io mi sono segnalato 3-4 punti, praticamente sono un paio di quelli suggeriti del dogma, ma il problema più specifico del significato e dell'apporto che la storia dà in questo caso alla determinazione, specificazione del tema del primato. A livello di dialogo ecumenico abbiamo anche sentito, ormai non si può più stare dentro la camicia di forza dell'opposizione tra ius divinum, ius humanum. Il primato è tutto l'istituzione divina o è tutto creazione dell'uomo. Non si può più adoperare questo, anche se nei dialoghi ecumenici si fa ricorso a questa terminologia. Mi sembra allora che il problema sia quello di come giustificare l'apporto che la storia dà alla decifrazione e alla concrezione, dice sempre Pottmeyer, del tema del primato. La storia, vediamo ormai, lo dicevo stamattina, è il mondo del possibile, che va anche al di là della realtà già realizzata nella Bibbia. E nella storia troviamo strumenti interpretativi della parola, ma anche incontriamo bisogni che nascono, esigenze di unità, per esempio, secondo un dato tipo, e anche strumenti operativi e forme per esercitare e realizzare quindi il ministero dell'unità. La domanda è appunto, prima, sono tre le domande che mi faccio a livello di storia del dogma in questo caso, come giustificare l'apporto della storia nella concrezione di questo tema del primato? Abbiamo sentito Pottmeyer che ha già dato una prospettiva indicando un problema delicato con i protestanti soprattutto, cioè praticamente se salta questa dialettica di contrapposizione tra ius divinum e ius humanum, bisogna porre in questione il tema della cooperazione dell'uomo. Cioè non si può più dire che l'uomo, entrando a dare il suo contributo per la realizzazione della Chiesa, seguendo gli imperativi anche solo remoti di Cristo, sia soltanto colui che introduce impurità. Allora viene fuori il problema della possibilità che non si possa più considerare, ormai tutti i dialoghi come ne so dicono, che l'invenzione del papato è un'invenzione dell'anticristo, l'anticristo. Quindi su questa pista si va verso una rivalorizzazione un tantino dell'apporto dell'umano e della cooperazione dell'uomo, non più sotto il segno dunque del diavolo, ma sotto il segno di Dio. Ma abbiamo sentito anche da Don Valentini, io l'avevo accennato l'altra sera io, che il discorso più forte allora dovrebbe essere quello più dichiaratamente pneumatologico, cioè come dar valore a tutto ciò che riguarda la comprensione della Chiesa e della Bibbia all'apporto dello Spirito Santo. Quindi sostanzialmente il problema della giustificazione dell'apporto della storia nella concrezione del primato deve decidersi alla luce di un rapporto migliore tra cristologia e pneumatologia. Ecco, in che misura lo Spirito Santo, in regime di incarnazione, è sempre lui il regista, l'agente dell'incarnazione anche storica della Chiesa. Mi sembra interessante il fatto che nel dialogo ecumenico, proprio quello americano, si dice che forse è migliore la teologia di Luca in questo senso che non quella di Giovanni. Cioè, mentre Giovanni presenta lo Spirito Santo come il dono post-pasquale del Cristo solo risorto, Luca presenta lo Spirito Santo come in azione già nella fase di incarnazione, cioè nella fase di istruzione di Cristo. Ecco una prima, diremmo, domanda o pista sulla quale confluire le nostre dibattiti eventualmente. Cioè, tentare di decifrare quale pista ci serve di più ormai oggi teologicamente per giustificare questa parte umana o storica nella concrezione del primato. Una seconda pista di domanda è quella sollevata spesse volte: allora come si fa il processo di legittimazione a partire da un'esperienza per andare verso il passato? Dicevo che ormai tutti i testi ecumenici dicono sì, se si può ammettere un primato di Pietro, Woolman, è difficile stabilire la successione, cioè che quello debba continuare. Allora ciò che viene dopo, come si collega con il precedente? Ecco, io in un testo accennando ad alcuni dialoghi ecumenici dicevo che non si accetta più l'idea che il primato è una realtà contra Evangelium, ma nemmeno soltanto preter Evangelium. C'è una tendenza a considerare il primato secondum Evangelium, come precisare questo essere secondo il Vangelo, anche senza poterlo giustificare con quell'esegesi quasi giuridica che lo trova già precostituito. Il documento americano parla di traiettoria, come interpretare, come la sentite? La domanda la rivolgo a tutti, eventualmente soprattutto i primi interlocutori, cioè i nostri conferenzieri, oppure come dice il testo anglicano spesso, è un disegno provvidenziale che ha portato questo. È lo stesso modo di dire lo Spirito Santo, è lo stesso modo di fare appello alla pneumatologia, e poi c'è anche la tendenza a preferire una trascrizione del problema del primato e soprattutto dell'infallibilità sul registro di Dio. Cioè vedo che a livello ecumenico, proprio per rispettare anche l'ambiguità dell'umano, si preferisce sottolineare il fatto che quando noi crediamo in quel dato caso di infallibilità a una presenza di questo carisma, lo intendiamo più prevalentemente come direi, un dono di Dio, cioè è Dio che rimane fedele. Non è tanto che sia una prerogativa posseduta, ecco il possesso, da un uomo o da un concilio, una realtà inerente all'uomo, ma si preferisce parlare della fedeltà, dell'infallibilità di Dio, in un certo senso, che garantisce certi momenti e certi atti. Un tema, ancora un terzo tema su questo problema radicale del rapporto storia nella sua parte, mi sembra quello che è venuto fuori più spesso, del discernimento, cioè tutti ormai gli storici ci hanno allenati a dire, e mi pare che questa è una confluenza notevole di questa nostra giornata, l'essenza, la sostanza, lasciamo stare il significato dei termini secondo le varie lingue, deve essere riscoperta mettendo insieme tutte le esperienze storiche, perché essa sta sotto e insieme con tutte le forme di concrezione. Allora, alla luce di quali criteri, o meglio, con quali criteri discernere questa sostanza del primato, tenendo conto del fatto che l'umano, dovunque c'è, introduce anche l'ambiguità, e allora abbiamo visto che nella storia qualche volta ci sono stati degli abusi, ci sono delle realtà che non sembrano legittimare completamente il primato. Ecco, direi alcune piste nelle quali io in parte sintetizzo la concentrazione focale dei nostri dibattiti, e dall'altra riaccendo, per così dire, e restituisco il dibattito di nuovo agli interlocutori. Questo era il primo gruppo di domande o di riassunti. Il secondo punto è quello ultimo che ci ha, direi, sollevato con un po' di problematicità violenta Don Valentini. Se è vero che bisogna situare anche nella storia, direi, criteri, strumenti, eventi per riprendere in mano il primato, quello è un dato biblico, mi sembra che lui ha spostato proprio tutta l'attenzione sul tema quale unità oggi è possibile, anzi desiderabile, anzi veramente voluta da Dio. Cioè sembra che l'evento ecumenismo, intendo anche qui un evento storico nella sua complessità, avrebbe portato alcuni, e non soltanto i più spregiudicati, ma mettiamo un Congar stesso e altri, a porsi questo problema radicale. Ma abbiamo diritto di chiedere un'unione delle chiese e un'unità di cammino delle chiese, quale avevamo nel Medioevo, nel secondo millennio, fino alla rottura? O possiamo e dobbiamo ipotizzare un tipo di unità un po' diversa? Cioè la resistenza, il fatto storico di una resistenza e di un'incapacità di assumersi deve essere preso così profondamente come problema da vedere in esso un segno che l'unità verso la quale deve funzionare o per la quale deve funzionare il primato del Papa non può essere già a priori prescritta da noi, ma deve essere sempre ripensata, di modo che allora non è soltanto il dogma del primato del Papa ad essere in prima istanza, ma diremmo è quasi strumentale a un prioritario problema. Quale unità E dico, segnalo che a livello ecumenico questo è stato il primo grosso problema, quale forma di unità? Ora, ecco, lui ha posto quel problema in maniera anche violenta, quasi quasi dava l'impressione di una rassegnazione, come a dire, ma abbiamo lavorato inutilmente nell'ecumenico, ci siamo accorti dopo lungo travaglio ecumenico che bisogna lasciare che tutte le confessioni rimangano quello che sono. Allora verrebbe fuori l'idea che il primato del Papa appartiene talmente alla storia di un secondo millennio contingente, tanto romano-cattolica, da non avere quella valenza, almeno così come sono, immediatamente per tutta la Chiesa universale. Vale per un tipo di Chiesa, per una forma di Chiesa, ma chi non avesse vissuto questa storia, o chi lo Spirito Santo non conducesse a vivere come abbiamo vissuto noi 2000 anni di storia così, sono tutti obbligati a fare quello stesso itinerario per arrivare a scoprire e valorizzare quello stesso privato. Ecco un secondo gruppo di riflessioni, questa volta più problematiche, direi molto radicali, ma dobbiamo avere il coraggio di affrontarle. Terzo punto, qui introduco, mi permetto di fare anche io una piccola introduzione, terzo, qui mi permetto di elencare tre miei problemi, ma li espongo così come contributo, ecco, per vedere se qualcuno mi aiuta a dare una soluzione, e sono dentro alla risposta che sto dando a questo problema ecumenico. La prima è questa. È stato accennato anche, mi pare, da Don Valentini, un'analisi o dagli altri, che il problema della comunione è un problema analogico. Altro è la comunione dentro una comunità locale e altro è la comunione tra chiese, tra comunità locali. Quindi il ministero di comunione che ci deve essere dentro una comunità legata alla parola e ai sacramenti deve essere considerato diverso dal ministero di comunione tra chiese. Ora, e qui è una mia riflessione sui testi del dialogo, ho notato che nei testi del dialogo ecumenico, specialmente quelli ultimi americani, anche quello anglicano, quello e soprattutto quello di Lima, sottolineano un salto che è avvenuto nella storia del cristianesimo, specialmente un documento molto bello, Episcopè, realizzato all'interno del Consiglio Ecumenico delle Chiese per preparare la Commissione di Lima, dove si nota che c'è stata una grande evoluzione tra il primo e il secondo secolo, proprio perché si è passati da una coinonia dentro la comunità, dove però allora la struttura del sacramento del ministero era molto chiara: un episcopo, o meglio un collegio di presbiteri con a capo un presbitero e diaconi. Era una struttura che funzionava all'interno della comunità. Quando si sono sviluppate molte comunità c'è stato un grande cambio e l'episcopo è diventato il supervisore di tante comunità e i singoli presbiteri sono diventati loro i principi di unità all'interno delle singole comunità. Ora, è avvenuto un grande cambio strutturale nel ministero della comunità. Ora, la domanda che appunto io mi farei proprio questa: perché non si potrebbe pensare a un salto altrettanto importante quando, diremo, si è trattato o si tratterà adesso di realizzare un ministero di comunione fra tutte le chiese, nell'eventualità che si debba veramente superare ormai e lasciare da parte la teoria di Rahner che chiederebbe quasi una specie di grado ulteriore di sacramento per il papato, ecco, come se il papa fosse... Ora, se è vero che la realtà del ministero sacramentale finisce nell'episcopo, è chiaro che l'analogia ancora di più deve essere tirata in campo per presentare il discorso del primato del Papa. Allora, insisto su questo, se è possibile concepire appunto un salto anche qualitativo diremmo, ma che sottolinea l'analogicità del discorso del ministero di comunione, quando si è passati non soltanto da dentro le comunità a un gruppo di comunità, ma quando si è passato all'idea di una comunità universale, soprattutto quando sono cadute certe, diremmo, strutture di garanzia esterna. E a questo proposito, ecco la seconda riflessione, mi sembra, è una mia ipotesi, che si possa allora, direi, mettere un'analogia con quanto, a mio giudizio, in maniera molto significativa, col Vaticano II, anche se preparata da Pio XII, con quanto è avvenuto per quanto riguarda la strutturazione del sacramento dell'ordine. Tra Trento e il codice di diritto canonico e il numero 28 della Lumen Gentium c'è un salto notevole. Trento, e il codice l'ha seguito, dice così sostanzialmente: si quis dixeris, non esse in ecclesia sacram hierarchiam divinitus constitutam, que constat episcopis presbiteris et ministris anathema sit. Cioè, si presta a una concezione poco storica, dove i tre salti dell'ordine vengono riferiti e la gerarchia, la potestà sacra che viene riferita a Cristo, che consta. Invece il numero 28 della Lumen Gentium, direi recependo un discorso che ormai parla così del ministerium ecclesiasticum divinitus institutum, il quale dice iam ab antico fin dall'inizio exercetur, viene attribuita a un esercizio storico, anche se antichissimo, al fatto della sua strutturazione. Ora mi domando se non si potesse pensare adesso, siccome ci siamo stati anche provocati dallo stesso Pottmeyer, a ridefinire il Vaticano I. Non si potrebbe pensare, proprio dire quasi così, ecco, invento una formula, ministerium petrinum divinitus institutum, sed ab antiquo, a un certo tempo, exercitum esto, fu esercitato, viene esercitato, e l'esercizio viene sottoposto piuttosto a una legge di storicità che varia e prepara quindi discorsi di possibili diversità nella formula. Mentre nella lettura immediata del Vaticano I si ha l'impressione che tal quale il modo di esercizio del primato del papato in questi ultimi secoli sia veramente ricapitolato alla fondazione divina, tanto più poi se leggiamo il documento del Santo Ufficio, il quale quasi quasi vorrebbe che l'esegesi biblica del suo spettro significasse veramente il conferimento di un primato immediato di redenzione a Pietro, come veramente se si trattasse che in quel testo lì Gesù aveva in mente il Papa del 1870. L'ultima e terza mia contributo di osservazione potrebbe essere, la sottometto anche a Don Conti, casomai lo invito a intervenire, è questa. Io sono rimasto sempre, e non ho trovato ancora soluzioni, neanche dalle conferenze, di fronte, anche se il professor Peri me l'ha liquidata dicendo che il passato non conta molto, sono rimasto con questa obiezione. Difficoltà. Come mai nei primi secoli non c'è un appello ai testi petrini da parte di papi? E tento questa mia interpretazione. Farei leva su quella teoria mistica della presenza di Pietro nella Chiesa romana. E mi domando perché mai non l'ho mai trovata nei testi ecumenici. Ho pensato che il motivo sia quello a cui accenna Pottmeyer, che con i protestanti abbiamo difficoltà di far mostrare che è cooperatore l'uomo all'azione di Dio. Ora, a me sembra che quella teoria invece è molto importante, perché, ecco, la individuo così, secondo quanto mi si dice, e darebbe il primato più alla sedes che non al sedente, sarebbe un modo più profondo e mistico di discutere di nuovo il tema del sedes o sedente, chi è il vero soggetto. Secondo la concezione mistica e diremmo anche devozionistica, la Chiesa antica viveva moltissimo del primato della Chiesa spirituale, e io questo l'ho rintracciato fino nel Medioevo studiando Sant'Antonio di Padova. Cioè la garanzia che la Chiesa militante, la Chiesa della Terra, è sostenuta sempre, diremmo in non erra, eccetera, più che un esercizio giuridico, è la garanzia che è ancora dentro questa Chiesa la protezione dei santi martiri che l'hanno fondata. Allora, Roma è quella devozione Pietro e Paolo, morti i martiri. Allora avremmo che nel primo cristianesimo molto escatologico, che viveva molto dell'aldilà, intendo in senso escatologico, noi avremmo che il vero appello non era tanto a una persona storicamente oggi che garantiva, quanto il fatto che la Chiesa romana, per esempio le grandi sedi di origine apostolica, apostoli martiri, sappiamo che tutti gli apostoli, è ancora presente l'azione e la protezione di questi grandi martiri. E io trovo in tutto fino al Medioevo che la Ecclesia Spiritualis, la Jerusalem Celestis, è veramente sentita come parte della Chiesa militante. Allora, a me sembra che l'appello a, direi, formule giuridiche fanno parte di una storicità necessaria, verrà fuori, io non la nego questo, ma ho l'impressione che forse il primo cristianesimo viveva talmente della presenza e azione del Cristo e di tutta la Chiesa celeste, di tutti i martiri che con lui sono, per cui le sedi dove erano morti i martiri, soprattutto Pietro e Paolo, era una sede particolarmente assistita e garantita. Ecco, la pongo come. E mi domando appunto perché non la vedo mai introdotta questa dottrina della presenza di Pietro nella Chiesa romana, che c'era nei primi secoli, i rimorsi di altri. Forse penso che mandare avanti questa tesi vuol dire incontrarsi con l'urto, il nodo centrale dei protestanti, cioè la fiducia nell'intercessione dei santi, e il Cristo non è lui solo che salvifica, che protegge, dobbiamo metterci dentro la Madonna, i martiri, eccetera, eccetera. Questa, mi sono permesso di introdurre anche questa mia interpretazione per poter contribuire in qualche maniera, ma sottopongo, ecco, con umiltà questa mia interpretazione perché vorrei sentire se coloro che hanno studiato la storia, che sanno un po' meglio di me queste referenze antiche, possono dire qualche cosa. Allora, ripeto i tre temi, storia soprattutto, e poi quale unità nella Chiesa, e poi mi sono permesso di fare queste tre domande quasi, che sono in fondo anche tre proposte. Detto questo, allora io restituisco la linea a coloro che mi hanno preceduto. Il primo è Ghiberti, se vuoi dire qualche cosa. No, ciascuno è libero di scegliere uno o due o niente o parlare di altre cose. Io ho soltanto messo tre, quattro piste, ciascuno adesso risponda a una, a due. Mayer ne avrebbe già delle altre da soddisfare di stamattina, ecco, liberamente contribuite. Ma io faccio il primo intervento soltanto perché sarà il più breve e incomincia dicendo che probabilmente il cultore della mia disciplina si trova, ma dicono che è molto sensibile, che prende tutto, anche in lontananza. Il cultore della mia disciplina probabilmente si trova più in difficoltà che quello delle altre discipline perché ha sì, le radici del discorso in mano, ma ha anche la materia più fluida e meno precisata. Diciamo, apparentemente assenza di questi problemi nei suoi documenti. Per quello che riguarda la prima domanda, che sì, lascerei fuori senz'altro la terza. E una parola sulla prima e una sulla seconda. Come giustificare l'apporto della storia nella concrezione di questo tema? Ma non so se è completamente fuori senso il richiamare l'esistenza di una doppia concrezione, perché è vero che la storia ha verificato la concrezione di questo tema, ma ha anche verificato la concrezione della formazione di altre maniere di intendere la Chiesa e il servizio all'interno della Chiesa. E dunque, o si sceglie la formula semplicemente della condanna di tutto ciò che esce da una determinata visuale, e allora il problema in fondo è già risolto perché si è fatta una scelta di tutto il male da una parte e tutto il bene dall'altra, o altrimenti bisogna cercare anche di individuare l'accettabilità o la parte di accettabilità delle altre concrezioni. Quanto, non soltanto quella cattolica, quanto al valore dell'apporto dello Spirito Santo per la fondazione di un discorso più equilibrato sul rapporto fra cristologia e pneumatologia. Il giudizio della preferenza da darsi a Luca piuttosto che a Giovanni nella posizione che lo Spirito ha circa la conduzione della Chiesa o la interpretazione di tutta la verità nella vita della Chiesa, sospenderei perché la mia preferenza va fortemente in favore di Giovanni, anche se le sue parole sono molto più ridotte, al punto tale che penserei che in Giovanni, al di là dell'apparenza, non sia comprensibile né la cristologia né la escatologia senza la pneumatologia, ed è uno degli inconvenienti di tanti commentari, per esempio l'ultimo commentario, quello dello Hentgen, che è comparso solo ora, che saltano abbastanza facilmente proprio il discorso di addio di Gesù. Ma questo che cosa vuol dire e qual è il criterio del giudizio per evidenziare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa? Come e dove lo Spirito rivela le cose che vengono, ta erchomena, cioè quelle cose che si riferiscono al venire di Gesù il primo, a quel venire di Gesù che è il suo ritorno al Padre, a quel venire di Gesù che è il presente dei credenti, a quel venire di Gesù in fondo che, alla fine che è il suo ritorno. Ancora una volta, gli scritti lucani sembrano dare una interpretazione di intervento dall'alto. Qui ci sarà Rinaldo che forse dirà qualche cosa di più sui suggerimenti che ci vengono, in modo particolare dagli Atti degli Apostoli. Gli altri scritti giovanei, che non sono soltanto il Vangelo, ci presentano una criteriologia che non è fuori del ministero, non è fuori del servizio apostolico, perché è una criteriologia che sta tutto all'interno di un dialogo tra un noi di autorità e un voi di accoglimento. E dunque credo che un ministero strettamente collegato all'annuncio, perché è tutto nella prospettiva di ciò che era all'inizio, che noi abbiamo toccato, visto, ciò che si riferisce al verbo della vita, noi ve lo annunciamo. Questo è molto chiaro, ma come poi questo tipo di ministero, che è certamente ministero apostolico, probabilmente già mediato, sia da riferirsi a quelle personalità di apostoli che hanno una funzione alternativa, una funzione complementare l'uno verso l'altro, è un po' difficile a dirsi. Vero è che raccogliendo dal Vangelo, quindi partiti dal Vangelo, andati alle lettere, ritornando al Vangelo per raccogliere suggerimenti che di lì provengono, soprattutto l'ultimo capitolo, quello chiamato di appendice, mi pare che abbia di nuovo dei suggerimenti da darci, ed è allora a questo momento che troverei utile rifare il discorso di ieri sera, al di là di quello che può essere storicità episodica, ciò che vi è di profondamente orientativo per quanto la riflessione sul ricordo di ciò che è stato il gusto e l'orientamento di Cristo possa dire per la Chiesa di oggi. Il fatto che in un'epoca così tarda, che è certamente, lasciamo stare la nuova datazione proposta da Robinson che fa finire l'opera Giovanni al 70, ma mi sembra che non sia abbastanza fondata, mi sembra che si possa ritenere che siamo certamente a cavallo tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo. Il trovare a quel punto una riflessione così forte, sia pure temperata, ma così estremamente forte riguardo del ministero pietrino, perché lì c'è certamente il ministero pietrino in 21 dal 15 al 17, debba essere estremamente indicativo, al punto che quello che stupisce non è tanto che nel secondo secolo non ci sia ancora il riferimento a questi testi perché ci sarà dopo, ma che non ci sia più. Perché effettivamente si vede verso la fine del primo secolo un crescere tale di riflessione in questa direzione che non dà una formula giuridica e io non sarei assolutamente capace di tradurlo in una terminologia giuridica, al massimo potremmo riconoscere che è una terminologia infelice, ma parecchi dei contenuti che si sono trovati nella vita della Chiesa successiva in riferimento a Pietro. Direi anche che, siccome questo discorso si trova almeno a una trentina di anni di distanza dalla morte di Pietro, è quasi impossibile ignorare che in quel momento la figura di Pietro non può essere soltanto più guardata come quella di un personaggio idealizzato che rappresenta ancora in qualche maniera l'epoca d'oro, ma che non ha più nessun influsso sul presente, perché è messo costantemente in contatto con quel Cristo che nella sua Chiesa è presente. E siccome a lui viene trasferito il ministero del pastore, e proprio sembra in quella funzione che è caratteristica, viene il capitolo 21 dopo il capitolo 20, quando agli apostoli e ai dodici è detto: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Il luogo dell'incontro con il risorto sarà l'incontro con l'apostolo, e dunque la trasmissione a Pietro dell'ufficio pastorale sembra proprio indicare che in concreto il luogo dell'incontro, un luogo certamente in qualche maniera privilegiato, il luogo dell'incontro con il risorto sarà in quel ministero pastorale di Pietro, sia estremamente indicativo, sia veramente il fondamento di ciò che viene dopo. Ecco, mi sembra che queste siano alcune piste, sia nella esperienza di Cristo trasmessa e rivissuta e fatto oggetto di riflessione a distanza di almeno 30 anni dalla morte di Pietro, e anche di quello stimolo che lo Spirito, credo che si debba dire così, ha portato perché la vita della Chiesa si sensibilizzi, probabilmente perché la sta in qualche maniera sperimentando questa presenza, al recupero di ricordi che possono essere illuminanti. Non so se è troppo entusiasta o ottimista questa mia lettura, è quel tanto che potevo dire, credo proprio che per me basta. Grazie. Mi limiterò a due soli punti, perché ci saranno altri a cui risponderà il professor Pottmeyer e Valentini. Il primo, in breve, anche se mi scuso della banalità di questa distinzione, dico banalità nel senso che l'uso che ciascuno di noi fa di parole le più comuni, i nostri esegeti ci insegnano che può essere molto vario. Si tratta di questo. Monsignor Sartori chiede: la storia cosa può portare al riconoscimento di un primato, di un ministero petrino? Storia, ancora comunemente, per molti suona come ha suonato per secoli, cioè in senso obiettivo, svolgimento di fatti capitati, seguito di episodi conosciuti, naturalmente registrati, memorizzati e raccontati. Quindi questo è in senso obiettivo, ciò che è capitato. Storia, in tutta la storiografia antica e umanistica, e fino a noi, e nella storiografia ecclesiastica, fino a questi anni, insomma, fino a questo secolo almeno, oltre a essere considerata in quel senso materiale, ciò che è capitato, è considerata come registrazione di documenti in serie cronologica, in serie eccetera, di solito condita con un commento morale lecitissimo, gli exempla, cioè si guardano nella storia i grandi casi, nel nostro caso i santi o i papi, in altri casi imperatori o re, per vedere come si fa e come non si fa, che exempla di umanità propongono. Anche questo è un tipo di storia. Io direi che nell'ultimo secolo, almeno in area laica, nel senso moderno, storia è invece una interpretazione ultima, complessiva, di tutte queste notizie e capacità di conoscenza di ciò che è accaduto, ma anche di discriminazione del loro senso. Naturalmente, quando questo dà un registro storicistico, perché questa è la parola, si passa nella storia della Chiesa, che non può accettare lo storicismo, perché sennò sarebbe come dire che la verità è l'ultimo Hegel che è arrivato. Non c'è nel cristianesimo, non c'è questo. Allora, quando si parla di storia della Chiesa, direi che questo metodo moderno, questa maniera moderna di intendere la storia come interpretazione, come senso profondo di ciò che è capitato e fatto dall'uomo, nel suo senso globale, è fatta necessariamente sub lumine revelationis, lumine revelato, il che consiste a dire che lo storico della Chiesa, se lo è e se ci riesce, è guidato in ultima analisi ed è garantito in ultima analisi nella verità della sua ricerca dallo Spirito Santo, che è quello di cui tanto si è parlato in questo convegno. E io credo che è sacrosanto, perché questa è dottrina comunissima, vale per la teologia, vale per altre cose. Insomma, naturalmente ciò non esclude, ma suppone il concorso umano della conoscenza storica, scientifica, l'erudizione, tutti i metodi più moderni concepibili e quelli che si inventeranno in seguito. Questa è la parte umana di conoscere e di interpretare la storia. Però il modo per capire cos'è il primato, per esempio, se questo fa parte della struttura della rivelazione, se è una struttura portante della rivelazione del mistero cristiano, se è voluto da Dio, ebbene lo Spirito Santo è il possedere il dono della fede che lo fa riconoscere quel che è vero e quel che è falso in tutto il passato della Chiesa. Questo mi pare una risposta. La seconda è quella che io ho disinvoltamente, quasi con un colpo della mano, non risposto. Mi chiede, o chiede a tutti noi, insomma, si pone il problema con signore Luigi, come lo dite anche, no? Non c'è, come mai che solo così tardi, diciamo praticamente metà del IV secolo, c'è il ricorso ai testi petrini da parte di Roma per giustificare il primato? Prima se ne erano dimenticati o non avevano fatto gli studi, un po' sarà anche questo. Tuttavia sarebbe come dire, a mio giudizio, ecco il gesto della mano, sarebbe come hanno chiesto per alcuni secoli, dalla scolastica in poi, anche dal medioevo in poi, i nostri teologi, qual è nel testo della scrittura la frase che giustifica l'istituzione del sacramento, per esempio, della cresima. E si sono rotti la testa un mucchio perché non c'è, almeno hanno avuto difficoltà a trovarla o inventarla, e così via, più facile per il canonicato, requiescit, eccetera. Ma comunque, insomma, per la cresima è difficile. Con questo, chi di noi ha mai detto o ha sentito dire che la cresima nei primissimi secoli del cristianesimo non sia stata esercitata, non sia stata data come sacramento? Credo che neanche i teologi l'hanno detto questo. Quindi, cos'è questa distinzione? La realtà sacramentale della cresima esisteva molto prima che si sia pensata, era l'esempio che facevo a proposito della famiglia, e ancora prima che si sia pensata di trovargli un fondamento biblico, sacrosanto fondamento, giustissimo fondamento. La parola nel Vangelo vale anche per quello, però evidentemente prima si vive e poi si tira fuori la giustificazione, anche quando questa giustificazione è corretta. Veniamo al primato. Se invece della cresima diciamo primato, io sono certo, tanti l'hanno detto, se abbiamo sentito anche Don Ghiberti adesso dire, io penso che sia vero, la realtà ministeriale di un primato petrino, per usare le parole di Monsignor Sartori, è stata certamente esercitata fin dagli inizi, esercitata, non certo nei modi di Pio IX, questo direi proprio di no, però esercitata come esercizio nella vita della Chiesa. Qui sarebbe lungo spiegare, ma credo che si può provare questo, provare storicamente. Professore, io le farei una domanda intermedia, sì? Perché ho saltato un'ultima cosa e così mi serve per fare. Io credo che sia meno difficile provare il principio di successione, dico una parola grossa e probabilmente... Comunque... Per Roma è difficile, non c'è. Che il principio della identificazione della successione. Ora, che ci sia una mezza idea a questo riguardo... Ma guardi che io non ho parlato di successione. No, no, ma sono io che... No, non è un'obiezione. Non so neanche se era Papa Lino o Papa Pietro, ecco, non lo sa nessuno. È un supplemento di domanda, sì, sì. Ma forse lei ha qualche elemento per dare una risposta. E cioè, ho l'impressione che all'interno del Nuovo Testamento l'idea che Pietro e Apostoli, in qualche maniera, fatte le debite distinzioni, debbano avere dei successori nell'ufficio, ma la difficoltà che io sento, che però non viene più trattata dalla mia disciplina e quindi che viene passata come patata calda agli altri, è questa, c'è qualche cosa che indica la identificazione della successione in maniera che dal grosso ventaglio si possa dire no, e soltanto in quella direzione si realizza. È ritornata la parola successione. Per questo caso io la scarterei, perché quando diciamo l'esercizio di un ministero, di un ruolo per tutta la Chiesa universale da parte del Vescovo di Roma, certo implichiamo anche il problema della successione, ma dal punto di vista storico questo non lo possiamo, almeno per quanto ne so io, dire molto. Possiamo però dire, e qui torno, mi ricollego al discorso di prima, come per la cresima c'era questo esercizio sicuramente sacramentale, questo esercizio ci fu da parte della sedes romana sempre e fu da tutti accolto tranquillamente come un fatto naturale. Torno a dire, non nelle forme che conosciamo noi nel 1950 o 70, questo è ovvio. Tuttavia, già nel concilio il primo di Nicea, prima erano perseguitati, era proibito avere delle associazioni senza andare in prigione e avere confiscati i beni, eccetera. Quindi nel 325, nel primo concilio, quando si danno una organizzazione, o meglio, danno riconoscimento legale generale, persino sancito dall'imperatore pagano, di un'organizzazione delle chiese, è pacifico che ci si modelli su quello che già esiste, sulla consuetudo, sulle iura canonici delle chiese. E qui nessuno si sogna di non dire che Roma è sempre citata la prima sedes, ma perché? Perché è l'impero, perché ha sempre fatto così, eccetera. Quando, e qui non c'era bisogno di mettere testi della scrittura, era ovvio, era la vita della Chiesa questo. Quando salta fuori, quando nel 381, nel secondo concilio, la crescita, la nascita, la creazione, come Leningrado hanno creato Costantinopoli, insomma, nasce una nuova città, la quale pretende di inserirsi in questo ordine preesistente al concilio di Nicea, che risaliva certamente al secondo secolo, nella struttura Alessandria, vicino a Roma, eccetera, allora a questo punto hanno detto, abbiamo diritto di stare noi, perché? Dovevano trovare una ragione, l'hanno trovata, perché siamo la nuova Roma, come ci sono i presbia, sia civili, così ci saranno le prerogative anche ecclesiastiche della vecchia Roma, vogliamo noi perché adesso siamo noi. E a questo punto che Roma ha detto, guardate che noi questi diritti, che tutti ci avete riconosciuto, non li abbiamo per questioni civili, li abbiamo perché, e allora sono andati a cercare perché, e sono andati a cercarlo in quel testo petrino che valeva per la fondazione di ogni episcopato, perché era tranquillamente riconosciuto nella tradizione. Ho finito. A me sembra che, insomma, è soltanto quando si rende necessaria una giustificazione di ordine teologico o scritturistico nasce. Non è detto che non ci sia prima, ma non è esplicitata, non è detta. Ecco, questo mi pare. Non so se ho una risposta. Ma diremmo, si ritorna a quella prova che si faceva sempre. Il primato deve esisterci, cioè il consolidamento deve essere perenne. Nessuno l'ha rivendicata o non incontestabilmente, se no dovrebbe essere a Roma. Ma no, io voglio sapere ma se... Non è questo. Non è questo. Non direi, almeno se ci sono, perché rimane il problema. Insomma. Ma il problema resta naturalmente. Ma a noi ci interessa di sapere se la giustificazione sia stata portata non come fatto storico, ma come fatto divino. Certamente se la si porta nei primi secoli è molto più, di fronte a livello ecumenico, più evidente, più forte, se non quando la si porta nel IV secolo. Ecco, quello volevo dire. Guttmeier. Allora ritenete giusto quello che dice il Nuovo Testamento non contiene un'esplicita attestazione circa la trasmissione della leadership di Pietro, né in generale molto chiara la trasmissione dell'autorità apostolica. È un testo già citato prima. Inoltre i testi petrini sono andati soggetti a interpretazioni divergenti fin dal tempo dei padri della Chiesa. Tuttavia, la Chiesa di Roma, la città in cui Pietro e Paolo avevano insegnato, erano stati martirizzati, giunse ad essere riconosciuta come il possesso di una responsabilità unica fra le chiese. Adesso non ribadisco. Però so poco è quello che. Ma forse Ghiberti va più in là di quel testo lì. Ad ogni modo, noi abbiamo fatto le domande, abbiamo provocato dibattito a partire anche da questo testo qui. Si ritorna di nuovo su quello, direi. Ma però Ghiberti mi sembra che dica di più di quello che non si può soltanto provare. se non si può soltanto provare un certo primato senza la successione. Sentiamo. Sì, forse posso anche prendere quella questione, perché sì. Il professor Ghiberti ha trattato ancora di questioni esegetiche, così io posso anche riprendere due questioni che ieri già sono fatte, dove vorrei dire qualche cosa. Cioè, prima questione, il significato tipologico di Pietro. È un fatto che ogni vescovo è stato il tipo di San Pietro, o diciamo altro, Pietro è stato il tipo per ogni vescovo. Così c'è certamente, come dice Blanc, il significato e l'uso tipologico della figura di Pietro. Questo non si può negare. Quando sarebbe soltanto questo, per i colloqui ecumenici sarebbe molto facile, perché questa sarebbe una base da tutti accettati. Abbiamo il tipo e ognuno, sia ognuno vescovo, sia ognuno cristiano, può verificare, realizzare questo tipo. Ma si deve domandare perché è Pietro chi fa il tipo. Perché Pietro? Perché non Giacomo? Perché non Giovanni? Perché non lo so chi è Andrea? E perché Pietro? E così si pone di nuovo la questione storica. Così, anche se si deve concedere, senz'altro, l'uso tipologico, la questione non è finita, ma si pone di nuovo. Così, l'altra questione è che anche sono vincolati quella, il professor Fabris ha fatto quel molto interessante intervento delle quattro tradizioni, Pauline, Pietrine, Giacobine, si dice? Giacobine. e di Giovanni. E forse anche oggi potrebbe essere che ci sono diverse tradizioni, chiese, tradizione ecclesiale, uno ha il Pietro, ha l'ufficio Pietrino, l'altro no. E io penso che questo non è possibile, perché se io il Musner, nel suo libro Peter in Paul, Petrus und Paulus, Pole der Einheit, lui dice che è interessante, un fatto molto interessante, che secondo quando si vede la tradizionsgeschichte, il significato, il valore di San Pietro si aumenta dopo il suo, lei ha già anche detto qualche minuto fa questo, si è aumentato, forse non la redazionsgeschichte, ma la tradizionsgeschichte è molto interessante, perché lei ha detto ieri anche redazionsgeschichte, ma anche la tradizionsgeschichte, si aumenta il significato di San Pietro dopo il suo morte sempre di più, perché i testi, diciamo, di San Matteo e così, non si sa, è discusso, ma io penso che la profeta Mattea, come si dice? Matteana. E poi cosa succede poi in accade, come si dice, nel capitolo 21 di Giovanni? Musna dice la convergenza, si cerca la convergenza della tradizione giovannea e della tradizione Mattea Petrina. Cioè il criterio giovaneo, l'amore più grande, E la tradizione petrina, cioè il pastore, questa è la convergenza. Mi ami più di altri, il criterio gioaneo, poi tu passi i miei agnelli, sì. Questa è la convergenza, così. che anche la Chiesa Gioanea ha visto la necessità in un modo di collegarsi con la Chiesa, con l'altra Chiesa, quando in questo processo dove si sviluppa la Großkirche, la grande Chiesa. La grande Chiesa. Non più le chiese locali, ma la Großkirche. E così io penso anche che oggi non si può dire poi c'è una tradizione più paulina, protestante, allora non tocca a Pietro. Io penso ci sono forse possono essere diverse relazioni, secondo il modello che lei ha presentato, diversificazione. Relazioni diverse. Diversità riconciliata, però. Diverse relazioni, la densità di queste relazioni, di influsso di questo ufficio pietrino, forse. Ma non che si può dire poi le altre chiese non c'è Pietro per loro. Non questo non è possibile. Così si vede, mi pare, secondo Musner almeno, il capitolo 21 di Giovanni, l'esempio per questo, come è successo. Poi, queste sono le due. Così anche il significato tipologico, non basta, così. La domanda di questa mattina è se è regolativo o costitutivo. Costitutivo, sì. In una funzione regolativa. Costitutivo per regolare, Costitutivo anche per sì. Diciamo, in una costituzione statale ci sono delle funzioni regolative, ma loro sono essenziali per questa costituzione. Questo non è un contrasto. No. Si possono, certamente è una funzione regolativa in un certo senso, non soltanto organizzativa, sul campo organizzativo si deve capirlo, quindi. Ma non è un contrasto. Poi sì, la parte del contributo dell'uomo. Un professore è sempre in una buona posizione quando può dire ho scritto già su di questo tema. E si può riferirsi, e quando si può riferirsi a questo. In questo caso, anzi, ho scritto in lingua italiana. Sì. Cioè nella rivista di Alberigo, si chiama? Cristianesimo nella storia. Sì. Dell'anno scorso, 81, pagine 71 fino a 95. E c'è un articolo su continuità e innovazione nella ecclesiologia del Vaticano II. Sì. Continuità e innovazione. Questo è il problema, si deve avere, Massimo Luigi, per questo una teoria di tradizione. Dare un risposto a questo. E questo deve essere cristologico e pneumatologico. E cioè significa anche che la nostra concezione, la concezione del Vaticano I è una concezione cristomunista, anche se c'è il Spirito Santo, certamente è un carisma e l'infallibilità, ma è soltanto lui opera soltanto nella gerarchia. Questo è cristomunismo. Non è escluso il Spirito Santo, certamente, ma opera soltanto nella gerarchia e nel popolo e nei vescovi, forse per creare obbedienza, ma poi finito. Loro non hanno un ruolo attivo. Così io penso che nel sviluppo della Chiesa e anche dell'economia salutis, l'uomo è divenuto sempre più cosciente del suo ruolo. E perciò, forse, io vedo il pericolo, professor Peri, quando si dice è stato sempre la prassi e poi dopo viene la coscienza, giusto? Ma io penso che non si sviluppa soltanto la coscienza, io penso anche lei pensa questo, ma anche la cosa. Diciamo, il primato, in un certo senso, diciamo, ufficio Petrino per la Chiesa Universale non si poteva, non poteva stare, non poteva essere anche praticato quando non c'era una Chiesa Universale. No? Perfettamente d'accordo. Sì. La coscienza, quando c'era l'esercizio, era coscienza non esplicitata. Noi parliamo sì. di testi che sono ah. coscienza esplicitata, ma questi sapevano cosa facevano. Sì. Che sia sviluppo anche della cosa è pacifico. Sì. Sicuro, l'ho detto tante volte, non nel 1950, sì. come nel terzo secolo, sì. sicuro. Certo. Io penso che lei non vuole dare un schema apologetico, così potrebbe, così... Qualcuno potrebbe dire in un modo apologetico tutto era già dall'inizio, tutto completo, soltanto che gli uomini non lo sapevano. E una presenza mistica, anche questa presenza mistica, cauto, si può capirlo in un senso certo vero, sì, ma non si deve dire, lo storico non può trovare niente e perciò è mistico. Questo non si può fare. Giusto, ma non può neanche dire lo storico non ha trovato niente, quindi non c'è una realtà. No, è vero, sì, ecco. Certamente, sì, questo è giusto, sì. Perciò io penso che c'è davvero, diciamo, il Müller ha detto, un grande teologo Müller, lui ha detto, quando ha è stato il reggimento, ha governato l'amore nella comunità, l'ufficio, il ministero era dentro la comunità. Poi quando sono venute le eresie e l'amore è passato, è sceso, ed è poi è stato ufficio. Necessario che il ministero ha fatto anche la posizione gegenüber der Gemeinde, di fronte della comunità. E poi, quando questa situazione è superata, sì, il ministero deve rientrare nel mezzo della comunità. E lui dice, questo è sbagliato nella storia, che quelle strutture in fronte della comunità sì. Che sono risalti in una certa situazione, hanno continuato sempre come strutture in fronte e non sono ritornate in mezzo della comunità. L'eccezione. Quando sono cominciate le con Giuda, con il pastorale? Già durante il tempo biblico. Così io penso che davvero è un'analogia, come dice anche la giurisdizione del Papa, del Vescovo e anche di una struttura, un papato per tutte le chiese. Lei ha fatto la domanda per la comunione. Sì. Questo termine comunione è analogico. Come dice Karl Lehmann adesso in un nuovo articolo, che anche la giurisdizione del vescovo nella sua diocesi e il Papa per la Chiesa universale, la giurisdizione è un concetto analogico. Così non sono in concorrenza, dovrebbero non essere. Io pensavo che stamattina accennasse all'aggettivo episcopalis, la potestà del Papa. Sì, dovrebbe interpretare in modo analogico. Sì, adesso finisco. Grazie. Valentini, hai gettato il sasso, adesso tira. Questo round mi ha convinto che è indispensabile per capire qualche cosa sull'ecumenismo tenere presente anche il futuro, oltre che il passato, oltre che l'attenzione allo Spirito Santo e alla storia. Voglio precisare questo punto qua. Interverrò molto schematicamente su alcune delle domande fatte da Don Luigi. Per quanto riguarda il significato della storia, il diritto divino e il diritto umano, la parte umana e la parte divina, eccetera. Secondo i documenti dell'ecumenismo, non c'è una possibilità di alternativa e di separazione, perciò, fra l'uno e l'altro. Le commissioni sono arrivate alla conclusione che l'uno e l'altro, sia pure in misura diversificata, sono presenti in ogni attività della Chiesa. A me sembra che questo sia un campo da approfondire in riferimento alla presenza dello Spirito Santo, all'interno di un'unica storia della salvezza, sia pure, come si dice, trascendentale e categoriale, generale e particolare, dando così spazio, il dovuto spazio, a quello che è uno Spirito Santo che edifica con tutto l'uomo, la sua Chiesa, e non sprecciando e smobilitando l'uomo in parte qui e poi lo troviamo. Un campo da approfondire veramente. Un secondo punto. Il primato secondo il Vangelo. Domanda. Perciò quello che è connesso, disegno provvidenziale, eccetera. Che si intende per primato? Che si intende per Vangelo? Che si intende per primato secondo il Vangelo? Il primato non è un concetto che sia definito nei suoi contenuti. Motivi storici, motivi dogmatici e teologici, ovviamente, impediscono. Ogni discorso è provvisorio, ma ogni provvisorietà è una profezia. Mi legge il presente e mi salva. Vangelo. Intendi il Vangelo quello fontale? O intendi il Vangelo Sacra Scrittura? Perché è facile. E allora anche la tradizione divina apostolica. Perché il discorso dovrebbe essere calibrato diversamente. Io suppongo che si intenda la Sacra Scrittura, per poter andare al problema, cioè alcuni problemi che sono emessi in modo particolare. Se si intende in questo senso, l'interrogativo ovvio è la tradizione, nel senso autentico, sia pure approfondito, dei verbi, che ci sta a fare? Ha o non ha un suo ruolo? Ha un suo ruolo. Un capitolo intero della Dei Verbum lo mette in evidenza. E mettendo in evidenza questo capitolo, il primato è secondo il Vangelo. Non ho nemmeno dubbio. Però quale primato ancora? Quale forma in cui si esprime il Vangelo della salvezza? Un terzo punto. Quale unità è desiderabile? Quale unità è desiderabile? Mi pongo all'interno di due orizzonti. Primo, la Chiesa, no, voglio dire, scusate, le Chiese come topos, come fonte di teologia sulle Chiese e per le Chiese. Le Chiese, non la Chiesa cattolica romana sono. Io credo che è impossibile fare oggi, d'altra parte a questo ci invitano anche molti passaggi dei documenti dei dialoghi, fare una teologia sul papato standosi all'interno del papato. Voglio dire, stando all'interno della Chiesa Cattolica. Sia pure alla luce del Vangelo, sia pure vuol dire alla luce del Vangelo, le altre Chiese hanno il dovere di aiutare a rinnovare teoreticamente e operativamente il papato. Perché non è il papato appannaggio solamente della Chiesa Cattolica, ma della unica vera Santa Chiesa di Dio. È un secondo orizzonte, questo primo osservazione conclude la necessità di fare la teologia anche con attenzione ai documenti ecumenici. Forse che lì in qualche modo non è presente anche lo spirito. Noi non possiamo dire che sia presente a un certo livello, definitorio e ultimativo, eccetera. Questo è chiaro. Però è possibile mettere fra parentesi questo lavoro, questa situazione, l'ecumenismo oggi? Io mi sono affermato, e un po' anche per questo motivo, sull'analisi di questi documenti, per mostrare che se uno dei luoghi prioritari per fare teologia oggi la nostra Santa Chiesa è quello, non so, di una certa, esemplificativamente, inculturazione dell'America Latina, faccio un esempio, no? Un'altra certamente è la sponda dell'ecumenismo. Secondo orizzonte. Facciamo ecumenismo, facciamo teologia sul papato all'interno dell'ecumenismo per rendere le strutture perfette o per edificare la speranza dell'uomo d'oggi anche con strutture perfette? La prospettiva è un po' molto diversa. Altro impostare un ecumenismo che va in una certa direzione unilaterale, a mio parere, e altro invece allargare l'ecumenismo a problemi che verso cui è anche rivolto, di fatto, e deve essere rivolto. Facciamo qui un discorso sul papato, non pensando che molte persone, molte situazioni, eccetera, eccetera, attendono una risposta, un aiuto dalla parola attualizzata nel tempio della Chiesa. Fatto questa premessa, due premesse, rispondo, quale unità desiderabile? Non c'è una risposta conclusiva. È una risposta possibile. Io non credo che si possa legittimamente, dal punto di vista teologico, addivenire a una unica risposta su questo punto. Non lo esige il dogma, non lo esige, non lo permette la situazione. Il problema della pluralità di modelli di Chiesa esistente nella storia della Chiesa e il fatto che questi modelli hanno avuto una loro funzione salvifica per quel momento di Chiesa in quella determinata storia dell'umanità non permette di dire che una certa visione di unità della Chiesa sia l'unica possibile. Noi siamo pellegrini verso una risignificazione del papato all'interno di un certo momento di trapasso culturale inedito, mi pare che tutti i discorsi convergono su questo punto qui, in un certo senso, vero? Per una salvezza di Cristo dell'uomo d'oggi. Può darsi che il modello della diversità riconciliata sia un modello non solamente ipotizzabile, ma quello che va bene per la Chiesa di oggi. Ovviamente nessuno vuol dire che questo è il modello definitivo. Un altro punto. La comunione. Vengo al testo delle tue piste, del tuo grappolo. Ecco, in questo grappolo ci sono tre domande. No, allora, molto bene. Cioè, molto bene che me la spiego molto bene. Comunione, anche per me, l'ho detto anche questa mattina, studiando la complementarietà, eccetera, eccetera, è la comunione è analogica, non c'è alcun dubbio. E perciò, proprio per portare degli studi, no? Il papato segue che il papato è anche all'interno dei vari spessori di comunione, da parte Vaticano II, no? Le vari modi di partecipare, segue che il papato ha un servizio differente rispetto alla comunione. Non si tratta semplicemente di complementarità, di sussidiarietà, di eccetera, eccetera. Si tratta di avere una visione globale di tutto quanto quello che è il mistero della Chiesa nel tempo. Secondo, per quanto riguarda le ultime due domande, cioè Lumen Gentium 24 e 28, sì, 28, e quello che riguarda la presenza mistica di Pietro, sì, sono molto interessanti. E lì li comuno in un unico discorso. Il discorso è questo: chi organizza nel tempo, nella Chiesa, nella storia dell'uomo, delle nazioni, chi organizza i vari frammenti, le varie diversità ai fini di una Chiesa dicibile, significante, convincente per l'uomo d'uomo, per l'uomo d'oggi, pur conservando tutto lo spessore di mistero. È evidente questo, è evidente. Però c'è una doverosità da parte della Chiesa di rendersi in quanto possibile significante. Chi coordina, chi fa l'opera del coordinatore? Dell'opera della attrazione verso il Signore Gesù in questa Chiesa? Lo Spirito Santo. Chi può dire? Parla dei verbum numero 8, dice che il progresso, eccetera, eccetera, è demandato, questo e questo e questo. Ovviamente nessuno di noi osa coordinare, no, numericamente il Spirito Santo con gli altri tre fattori che sono quella di coefficiente del progresso. Del progresso della rivelazione cristiana, come messaggio e come valori, come vita, eccetera, eccetera. E lì è quello che fa l'opera di organizzazione. Allora, questo problema del ministero, ecco, che ha un luogo prioritario nel Vaticano II, è dell'ordinazione a un certo punto, a un livello nel Tridentino, è fatto dallo Spirito Santo, che mi permette di, che essendo colui che fa il corpo della Chiesa, è anche colui che lo fa a livello di questa intelligenza, di questo corpo, a livello dello sviluppo dogmatico. Il problema qui che viene fuori è quello che significa una formula, che significa storia dei dogmi, che significa sviluppo dei dogmi, che significa interpretazione dei dogmi, che significa individuare i dogmi, la sua similarità, eccetera, eccetera. E tutto questo è un discorso che muove verso il futuro. Dal futuro sono partito, con il futuro me ne chiudo e faccio punto, e grazie. Un uomo di futuro con la mezza è venuta per chi volesse partire, un quarto d'ora ancora per chi volesse fare domande, forse sarebbe stanchi, tonti sono stanchi, ma se c'è qualcuno che vuole interferire, padre Armeno, Leone. A tutti, padre Leone. Praticamente si è discusso a livelli esegetico, artistico, storico, a tutti i livelli possibili. Però quale potrebbe essere l'incidenza di tutto questo poi nella prassi concreta della Chiesa? Ovviamente se prospettiamo andrei in maniera radicale quella soluzione di una diversità pacificata o riconciliata, non c'è problema. Però, per esempio, ultimamente leggevamo gli articoli di Pantelà sul Gredicon, abbastanza preoccupati per le prospettive del nuovo codice di diritto canonico, per la Lex Fundamentalis, eccetera. Poi, per esempio, l'eterna questione che non si è potuta risolvere nonostante tanti sforzi del rapporto tra cardinalato e patriarcato. Oggi qualcuno ha accennato che il Papa veniva praticamente eletto dal popolo di Dio. Non dico di ritornare a questo. Però Paolo VI, per esempio, non ha potuto introdurre, credo, una cosa che avrebbe desiderato, che i patriarchi orientali, senza essere cardinali, potessero partecipare al codice. Introdurre nel codice. No, ho capito il credo. Quindi tante cose, diciamo, di prassi concreta, perché forse almeno per le chiese orientali, una delle grandi difficoltà, forse la principale, non è quanto le questioni teoriche che si potrebbero forse anche risolvere con lo studio, con la eccetera, con il dialogo. Ma poi c'è questa, un senso di incubo di fronte alla Chiesa o all'amministrazione monolitica potente della Chiesa Cattolica. E non so se praticamente tutti questi studi, e soprattutto il dialogo ecumenico, e anche per esempio i convegni che si stanno facendo, che vanno, quale incidenza hanno effettivamente nella vita della Chiesa e quali sono soprattutto le prospettive per un immediato futuro, se fra 10-20 anni speriamo, se qualche cosa anche a livello pratico e concreto, ma sostanziale, non quei passi minimi che insomma forse servono anche un po' ad autoincluderci, ma qualche cosa di sostanziale e concreto potrà essere forse fatto in questo senso. una domanda un po' fortina, e ci vorrebbe il padre Fortino rispondere. E io dico che dobbiamo avere fiducia nello Spirito Santo e anche pregare, penso. Poi come teologi dobbiamo fare la nostra parte. Poi c'è il professor Peri che lavora nelle varie commissioni, e dentro che lui è la commissione cattolico ortodossa, poi consultore del segretariato, anche lei lavora. Io non c'entro niente, poi ecco, anche Ghiberti lavora, io lavoro in qualche commissione, Pottmeier lavora anche lui, cerchiamo ognuno di fare qualche cosa. Tu hai messo in questione sul problema del potere, noi non siamo persone di potere. Però se ho ben capito non era solo la questione di potere. No, ma di potere, cosa si può fare? Di poter cosa si può fare? Cosa si può fare? C'è una preoccupazione vera per quanto riguarda l'ortodossia, e la stessa domanda mi è stata fatta altre volte, ma anche senza che mi si faccia la domanda, è vero. Si ha la sensazione che all'interno della nostra Chiesa, parliamo della Chiesa in Italia, ma si può dire per altri paesi probabilmente simile, fuori di ristrettissime cerchie c'è ben poco interesse. Direi che nelle chiese ortodosse a livello di popolo e a livello dei teologi ce n'è anche di meno. E quindi la domanda sua è fondata, è concreta, ma è fondata. Si può solo sperare, personalmente io vedo questo, di continuare a fare ognuno quel poco che fa, ma di moltiplicare contatti reali, anche di cristiani che vanno dall'altra parte e cristiani che vengono da questa parte, contatti reali. E poi una parola di conforto per le preoccupazioni del padre Lanzi. Il padre Lanzi è sempre preoccupato da 50 anni a questa parte, quindi non bisogna preoccuparsi troppo con lui. Il padre Lanzi. Poi comunque il Monsignor Roger, tra la sua parte, pubblicherà gli atti di questo nostro convegno e dopo li manderemo. Io penso che tutto questo lavoro, anche dei teologi, cambia la coscienza. Sì. Questa è la nostra sola speranza che possiamo avere. Durante un convegno con la gerarchia pre-calcedonense a Vienna, qualche dei vescovi di loro hanno detto: noi siamo convinti che abbiamo bisogno di un ufficio della Chiesa universale, in un certo senso. Ma questo non possiamo dire alla nostra comunità. Ancora no. Ancora no. Quando diciamo nostra convinzione a loro, no, vengono col bastone. E così io penso che cambia la coscienza, ma anche dico che queste cose, questioni pratiche sono sempre il decisivo punto dove si vede come è sviluppata la coscienza in una chiesa o nell'altra. No, questo, là, in queste questioni si mostra che cosa vale, non la teoria, può sempre vale anche quando non c'è la pratica, ma quando vale la coscienza, come è già cambiato la coscienza della Chiesa quando si professa pubblicamente, perché che una vuole essere una comunione e non sa praticare la comunione. Il professor Alzati? Io mi ricollego credo che realmente il lavoro teologico produca a lunga prospettiva un mutamento di coscienza nelle comunità ecclesiali. Però anche l'accenno precedente ai colleghi Cedonelli, non credo che sia l'ecumenismo un fatto innanzitutto di teologia. L'ecumenismo è un fatto di Chiesa, e io mi scuso di fronte a chi sto parlando. Il teologo che elabora una unità già raggiunta e poi si accorge che la propria comunità ecclesiale non lo segue, non so fino a che punto sia autentico nella sua elaborazione, perché la Chiesa è un fatto vitale, di vita, e di questo non si può prescindere. Di qui allora la preoccupazione degli orientali, che mi sembra giustissima. Va bene gli incontri, va bene le conferenze e i documenti, ma nel concreto la vita ecclesiale qual è? Prendiamo i patriarchi orientali, ci siamo prosternati a baciare i piedi di un metropolita rappresentante di una sede patriarcale orientale, un gesto che ha lasciato perplessi molti da tutti. Si prende l'annuario pontificio, lo si apre nelle prime pagine e si legge: i patriarchi delle chiese orientali sono sottomessi all'autorità della Sacra Congregazione delle Chiese Orientali. Questo è 1981. Quindi, questi sono gli elementi decisivi e qualificanti, perché il discorso che poi nella prassi non si traduce, allora può essere interpretato anche come mistificato. Poi c'è un altro problema che vorrei sottolineare, sempre riguardo l'ecumenismo, questo qui forse è per la tangente, ma mi sembra molto importante, e si ricollega a quanto dicevo prima del teologo che può essere tentato di elaborare a un livello di ricerca pura, non tenendo conto e che l'ecumenismo in fondo in questo momento è notevolmente in mano alla teologia o alla storia della Chiesa sviluppata a questo livello, che è essenziale, imprescindibile, ma che non può essere l'unico, perché non si può prescindere nel rapporto interecclesiale dalla concretezza storica. Le chiese vivono nel tempo e in certe situazioni che le condizionano radicalmente. E un atteggiamento nei rapporti interecclesiali, come 500, il professor Pere qui è veramente maestro, 582, la turcocrazia aveva un'incidenza estrema nel rapporto interecclesiale, oggi ci sono altre realtà che hanno un'incidenza estrema nei rapporti interecclesiali e in Europa e in Medio Oriente, E di questo credo l'elaborazione ecumenica non può non tener conto, e il dialogo ecumenico non può tener conto, pena diventare per alcuni aspetti mistificante. Solo che questo è una parola di difesa dei poveri teologi che non lo sono. Ma dopo mi difendo io. Sì, no, perché Gesù Cristo dell'Orto ha fatto una bella descrizione della Chiesa e sono scappati tutti. Quindi non era collegato con la comunità. Perciò non so, secondo i teologi non possono mica andare in Argentina e in Inghilterra a dire non fate più la guerra, possono dirlo, ma non li ascoltano tanto. Voglio dire, ci sono dei condizionamenti storici purtroppo che incidono molto sulla vita ecclesiale, ma che non è addebitabile esclusivamente alla Chiesa stessa, insomma. Io difendo dicendo che i teologi che si sono interessati dell'ecumenismo, in minima parte, i pionieri senz'altro, l'hanno fatto per una loro vocazione carismatica, ma quelli che hanno lavorato e lavorato a questi testi sono teologi commissionanti, quindi il problema non è dei teologi che si sono distanziati, è che la Chiesa non ha provveduto, anche la Chiesa come struttura, a mantenere un collegamento stabile tra il lavoro teologico e la base. E di questo difetto però pecca tutto l'ecumenismo, perché nella fase attuale di Ginevra la crisi è proprio questa: ci si è accorti che si producono dialoghi, ma non c'è il problema della recezione intesa in senso attivo. Cioè, il vero problema oggi dell'ecumenismo è di come strutturare una chiesa che non mandi avanti dei pionieri soltanto a portare a casa dei grappoli della terra, e addirittura poi con gli altri che dicono: ma ci sono i giganti che fanno paura, per cui a un certo punto si dividono i due grappoli, l'uva e i giganti, per cui da una parte si dà speranza, dall'altra si dà timore, e quindi è un problema strutturale. Quindi io difendo i teologi perché si hanno lavorato su commissione. Ora è una chiesa che rimanda allo sbaraglio senza preoccuparsi poi di creare intorno una struttura, anzi io direi, mi permettete che dica questo, sostanzialmente in questi ultimi anni, in Italia almeno, o almeno in alcune zone, i teologi sono stati additati come sospettosi a priori, cioè di sospettati, cioè vuol dire che c'è un clima spesso in cui con la scusa che c'è stato un king, o con la scusa che c'è stato quell'altro, sostanzialmente si è creato un clima, diremmo, di diffidenza a priori dei teologi. E noi siamo piuttosto vittime, io qui mi difendo proprio veramente. E con questo allora ringraziamo tutti quelli che sono venuti, e Monsignor Rodri, sono i due sartori, non ha da aggiungere altro. Il cappello faccio presto a farlo. E se c'è qualche ulteriore sviluppo rispetto a quell'elemento che Paolo VI presentò nella lettera del 1974 in occasione del centenario del Concilio di Lione, quando nel corso di tutta la lettera, infatti qui immediatamente rilevato da Pontale, egli parlò del sesto concilio. Sesto sino generale della Chiesa d'Occidente. Sesto sino generale d'Occidente, dopo i quattro quel testo forse fu preparato anche da qualcuno di qui presente. Comunque, quel testo fu intenzionalmente elaborato dal segretariato, però è mandato avanti come, direi, il reclamo solo ancora dal segretariato. Nessuno dei teologi lo reclamiva. Abbiamo ragione ad alzarti, perché negli insegnamenti di Paolo VI ufficiali, nel testo è così, nell'indice Concilio Ecumenico. Voglio dire che purtroppo solo nell'insegnamento ufficiale c'è l'indice alla fine, no? Benissimo, mentre c'è tutta questa cosa di chiamarlo generale, eccetera, come hai detto fu chiamato fino al 1595, il 25 di ottobre, prima mai avevano chiamato altrimenti. Fatto questo, il documento dice così, però l'indice degli insegnamenti rimanda alla pagina dicendo Concilio Ecumenico di... Tocca a noi reclamizzarlo. Io ho visto che è reclamizzato questo fatto solo all'interno di un gruppetto di teologi del segretariato. No, meno male, grazie. Allora dici un salutino. Dunque vedo che andiamo svegliandoci sempre di più. Anche con il movimento di quelli che ormai hanno preso la via. Purtroppo ci tocca concludere questa giornata che è stata così densa di impegno fisico, come ci è stato promesso fin dall'inizio, di impegno psicologico e di impegno spirituale, veramente. Io devo dire la soddisfazione che vedo e sento, insomma, evidente in tutti voi, è la soddisfazione nostra e non occorre altro se non raccomandarci che, insomma, ci possiamo ritrovare ancora per incontri di questo genere che con l'impressione che vengono in futuro. No? Ringrazio in particolare l'amico Sartori per la sua generosità. Veramente ci aiuta e ci sorregge. E pensa che, insomma, anche se Clavijer Celesti ci ha fatto una brontolata ieri pomeriggio, l'impata un semitono questa sera, ma insomma col sole che adesso viene fuori, insomma, si sveglia abbastanza soddisfatto anche lui e vi accompagni felicemente alle vostre case. Ha detto che sarà certo.